Non mi piace scrivere. Non sono bravo a farlo. Scrivere comporta una scelta infinita tra mille espressioni, nessuna delle quali alla fine mi soddisfa mai completamente. Una lettera, anche la più lunga, costringe sempre a semplificare ciò che non può essere semplificato. E qui vorrei fare uno sforzo, non soltanto di sincerità, ma anche di esattezza. Tutto ciò che ti chiedo, la sola cosa che ti possa chiedere ancora, è di non saltare nessuna di queste righe, che mi saranno costate tanto. Se è difficile vivere, è ancora più difficile spiegare la propria vita. La vita non è semplice, e almeno questo io non ho colpa. Forse avrei fatto meglio a spiegarmi a voce bassa, lentissimamente, nell'intimità di una stanza. Ma tu sei molto buona. In un racconto di questo genere c'è qualcosa di pietoso che può spingere all'intenerimento. Avendomi compatito, crederesti di avermi compreso. Mi interromperesti troppo spesso. Certo che basterebbe per spiegarmi qualche termine preciso, che non sarebbe neppure indecente, dal momento che è scientifico, ma non lo userò. Non che ne abbia paura. Non bisogna temere le parole dopo che si è ceduto ai fatti. Semplicemente non posso. Non soltanto per delicatezza dal momento che mi rivolgo a te, ma non posso di fronte a me stesso. Ci sono dei nomi per tutte le malattie. E la cosa di cui parlo viene considerata una malattia. Io stesso l'ho creduto per molto tempo. Non sono medico, ma non sono neanche più certo di essere un malato. Il fatto è che la vita, mia cara Monique, è molto più complessa di tutte le sue possibili definizioni. La vita è qualcosa di più della poesia. È qualcosa di più della fisiologia e persino della morale. È tutto ciò. È molto di più ancora. È la vita che appartiene a noi soli, che non si ripeterà una seconda volta e che non siamo certi di comprendere del tutto. Come potrebbe un termine scientifico spiegare una vita quando non è neanche capace di spiegare un fatto? Lo designa, sempre allo stesso modo, eppure non esistono due fatti identici in due vite diverse, e forse nemmeno nella stessa vita. I fatti sono tuttavia abbastanza semplici da esporre, e può darsi che tu li sospetti già. Ma quando ti avrò detto tutto, mi resterà ancora da spiegarmi a me stesso. Questa lettera non vuole essere un'apologia, ma una spiegazione. Non sono tanto pazzo da augurarmi che mi si approvi. Non chiedo neppure di essere accettato, desidero solo essere compreso. Tu mi hai dato tanto nelle piccole cose che sento quasi il diritto di aspettarmi la tua comprensione nelle cose più grandi. Pensare che ti conosco da quasi 3 anni e che per la prima volta oso parlarti, e solo per lettera, e perché devo proprio farlo. È terribile che il silenzio possa essere una colpa, e la più grave delle mie colpe, ma purtroppo l'ho commessa. Prima di commetterla verso di te, l'ho commessa contro me stesso, ma quando il silenzio si è fissato in una casa, farlo uscire è difficile. Più una cosa è importante, più sembra che la si voglia tacere. Ogni silenzio non è fatto che di parole che si sono taciute. Forse per questo sono diventato musicista. Ci voleva qualcosa per esprimere questo silenzio, per fargli spremere tutta la sua tristezza, per farlo cantare. Non doveva servirsi di parole. Le parole sono troppo precise per non essere crudeli, ma semplicemente di musica. Perché la musica non è indiscreta. E quando si lamenta non dice mai il perché. Ci voleva una musica di un genere particolare, lenta, piena di lunghe reticenze, eppure autentica, tanto aderente al silenzio da insinuarvisi poco a poco. Questa è stata la mia musica. Sono stato allevato dalle donne. Ero l'ultimo figlio di una numerosissima famiglia ed ero di natura cagionevole. Una ragione in più perché fossi amato. La nostra vita, alquanto austera, era fredda in superficie. Mia madre e le mie sorelle non erano felici. Avevamo paura di nostro padre e nulla avvicina gli esseri come l'aver paura insieme. Né mia madre né le mie sorelle erano molto espansive. La loro presenza era come di quelle lampade basse che rischiarano appena, ma il cui chiarore non permette mai che sia buio del tutto e si possa stare veramente soli. È difficile immaginare quanto sia rassicurante per un bambino inquieto come ero io allora l'affetto tranquillo delle donne, il loro silenzio, le parole senza importanza che non esprimono se non la loro calma, i gesti familiari che sembrano addomesticare le cose, i loro volti sbiaditi ma tranquilli, così simili dunque al mio. Non ricordo, credo di aver mai inteso una risata, neppure un riso di ragazza, se non subito soffocato. Ma non eravamo nemmeno infelici. Tutti intorno a me ammettevano che si può essere felici senza mai smettere di essere tristi. Non si ride molto nelle vecchie famiglie. Noi non eravamo, per così dire, che il termine di un lignaggio in quel vecchissimo paese della Boemia del Nord. Si sarebbe potuto credere che noi non esistessimo, che personaggi invisibili ma molto più imponenti di noi stessi continuassero ad occupare con le loro immagini gli specchi di casa. In un certo senso sono i vivi nelle vecchie famiglie a sembrare le ombre dei morti. Le mie sorelle erano molto riservate. Tutte, credo, avevano già il loro amore. Naturalmente io ero troppo giovane perché si confidassero con me, ma indovinavo, mi associavo alle loro gioie e ai loro dispiaceri. Molti di quegli amori erano ancora vaghi, avevano per oggetto dei giovani del vicinato e costoro neanche lo sapevano. Quando capitava che qualcuno di loro comparisse all'improvviso, il cuore mi batteva forse più che alle mie sorelle. È pericoloso. Per un adolescente sensibile come ero io allora, imparare a vedere l'amore attraverso i sogni delle fanciulle. Nel corridoio che conduceva alla mia camera c'era un'incisione moderna che nessuno degnava mai di un'occhiata. Era tutta per me. Non so chi ce l'avesse messa. Si vedevano delle persone intente ad ascoltare un musicista, e questi volti di creature alle quali la musica sembrava rivelare qualcosa avevano ai miei occhi un fascino quasi sinistro. Avrò avuto 13 anni e né la musica né la vita avevano ancora avuto alcunché da rivelarmi, almeno così credevo. Ma l'arte fa parlare le passioni con un così bel linguaggio che ci vuole molta più esperienza di quanto ne avessi io allora per comprendere ciò che esse vogliono dire. La musica mi metteva allora in uno stato di intorpidimento molto piacevole e un po' strano. Sembrava che tutto divenisse immobile tranne il battito delle arterie. Era un piacere ma anche una sofferenza. Ai personaggi della mia incisione prestavo emozioni più profonde, li immaginavo partecipi di un dramma. Che ci fosse un dramma mi pareva indispensabile, è sempre così, abbiamo paura di un dramma, qualche volta desideriamo persino che avvenga e non ci rendiamo conto che è già cominciato. Thank you. Tra i 14 e i 16 anni avevo meno amici che mai, perché ero più selvatico. Mi misero in collegio a Presburgo. L'istruzione ricevuta in casa non sembrava più sufficiente e si pensava che il mio gusto per la musica nuocesse agli studi. È vero che non erano troppo brillanti, ma non migliorarono in collegio. Ero un allievo assai mediocre. I lunghi mesi di Presburgo mi hanno insegnato la vita, voglio dire quella degli altri. La maggior parte dei miei compagni apparteneva allo stesso ambiente da cui provenivo io e ne conoscevo qualcuno, ma la vita in comune sviluppa la brutalità. Mi urtava, quella dei loro giochi, delle loro abitudini, del loro linguaggio. Nulla è più cinico delle chiacchiere degli adolescenti, anche e soprattutto quando sono casti. Molti miei compagni vivevano una sorta di ossessione per la donna. Certe pietose creature intraviste durante le passeggiate interessavano fortemente i più grandi, ma in me provocavano una ripugnanza straordinaria. Ero sempre vissuto ripiegato in me stesso. Ero un ragazzo pieno di scrupoli, pieno di quelli che si sogliono chiamare i migliori sentimenti. Davo un'importanza quasi morbosa alla purezza fisica. Probabilmente perché, senza saperlo, davo invece molta importanza alla carne. L'indignazione mi pareva dunque naturale, e d'altra parte mi ci voleva un nome per designare ciò che provavo. Ora so che era paura. Avevo sempre avuto paura, una paura indeterminata, incessante, paura di qualcosa che doveva essere mostruoso e che già in anticipo mi paralizzava. Era come se avessi scoperto una malattia contagiosa che avrebbe potuto impossessarsi di me. Sapevo confusamente che cose simili esistevano, ma le immaginavo come fatti piuttosto vaghi, appartenenti ad altre epoche o a luoghi diversi, privi per me di ogni realtà. Ma ormai li vedevo dappertutto. La sera a letto soffocavo ripensandoci. Credevo sinceramente di soffocare di disgusto. Ignoravo che il disgusto è una forma di ossessione e che se si desidera qualcosa è più facile pensarci con orrore che non pensarci per niente. Io ci pensavo continuamente. Scrissi a mia madre delle lettere assurde, esagerate seppur vere, in cui la supplicavo di togliermi dal collegio. Le dicevo che ero infelice, che volevo diventare un grande musicista e che non le avrei fatto spendere altro denaro inutilmente. Mia madre fu molto buona. Venne lei stessa a prendermi. Mi sentii salvo, salvo da me stesso, un sentimento ridicolo che ho provato molte volte in seguito. Mi misi seriamente al lavoro, giunsi a riempire le mie giornate di una musica così continua che i momenti di silenzio mi sembravano delle pure e semplici pause. La musica non facilita i pensieri, facilita soltanto i sogni, e i sogni più indefiniti. Tutto quanto potesse distrarmi da essi oppure precisarli, sembrava che lo temessi. Pensavo il meno possibile. Mi rallegravo di darmi corpo ed anima allo studio. Ero come un febbricitante che non trova spiacevole il proprio torpore, ma che teme di muoversi perché il minimo gesto potrebbe dargli dei fremi. Ho imparato in seguito a temere quella calma in cui ci si addormenta quando si è sull'orlo di certi eventi. Ci si crede tranquilli, forse perché qualcosa a nostra insaputa si è già deciso in noi. E fu allora che accadde. Era un mattino come tutti gli altri. Un mattino in cui nulla, né il mio corpo né il mio spirito, tradiva alcun indizio di quanto sarebbe potuto accadere. Camminavo in aperta campagna su un sentiero fiancheggiato da alberi. In questo momento in cui sembro allontanarmi dalla natura, lascia Monique, che io la noti per quel suo essere presente dappertutto sotto forma di necessità. Il frutto cade soltanto alla sua ora, quando la gravità vince la sua lunga resistenza e riesce a tirare il frutto verso terra. Non c'è altra fatalità che quell'intima maturazione. Non oso raccontarti tutto che in maniera molto vaga. Camminavo senza meta, non fu colpa mia, se quel mattino incontrai la bellezza. Ciò che provai non fu vergogna e ancor meno rimorso, fu piuttosto stupore. Non avevo mai immaginato tanta semplicità in ciò che ancora poco prima mi ispirava terrore. E la nostra immaginazione che si sforza di rivestire le cose, ma le cose sono divinamente nude. Quando rincasai mi girava un poco la testa. Non ho mai potuto ricordare come passai la giornata. Il fremito dei nervi fu lento a spegnersi in me. Ricordo soltanto il ritorno nella mia camera la sera e certe lacrime assurde, per niente dolorose, che altro non erano se non un rilasciamento. Per tutta la vita avevo confuso il desiderio e la paura. Non sentivo più né l'uno né l'altra. Non dico che fossi felice, non ero abituato alla felicità, ero soltanto stupito di essere così poco sconvolto. Per qualche settimana vissi con gli occhi chiusi. Poi un giorno egli non venne più. La mia febbre cessò. Fu come un risveglio, come lo stupore prodotto dal silenzio quando la musica si spegne. Ciò che mi atterriva era di aver potuto vivere così, di aver potuto essere felice per parecchie settimane prima che l'idea del peccato mi colpisse. Avevo troppi scrupoli per non sforzarmi d'essere il più infelice possibile, a rendere forse la voluttà così terribile e quel suo insegnarci che abbiamo un corpo. Prima il corpo non ci serviva che a vivere, ora sentiamo che ha la sua esistenza particolare, i suoi sogni, la sua volontà, e che fino alla morte dovremo tener conto di lui, cedere, transigere o lottare. Questo corpo che sembra così fragile è tuttavia più resistente delle mie decisioni virtuose. Ah, Monique, tu credi l'anima immortale. Perdonami di essere meno sicuro di te. Sovente l'anima non mi sembra che un semplice respiro del corpo. Naturalmente non potevo che giudicarmi, secondo le idee accettate intorno a me. Mi condannavo dunque severamente. Credevo in Dio e mi giudicavo abominevole davanti a Lui. Mi promisi che non sarebbe più capitato. Lo giurai a Dio, come se Dio accettasse i giuramenti. Rigettavo tutta intera la responsabilità su colui che ne aveva soltanto una parte. Mi persuadevo che la mia separazione da lui era stata volontaria, che era meritoria. Sapevo bene che non era vero, ma insomma avrebbe potuto esserlo. La nostra memoria è anche il nostro zimmello. Per me il vizio consisteva nell'abitudine al peccato. Non sapevo che è più difficile cedere una volta sola che non cedere mai. Spiegando il mio peccato come un risultato di circostanze alle quali mi ripromettevo di non espormi più, lo separavo in certo modo da me per non vedervi più che un accidente. Amica mia, ti risparmio il racconto delle nuove infrazioni che mi tolsero l'illusione di essere soltanto a metà colpevole. Non avevo nessuno a cui chiedere consiglio, non avevo intimità coi miei fratelli. Mia madre aveva delle illusioni commoventi nei miei riguardi e non mi avrebbe mai perdonato di rovinarle l'idea purissima, dolcissima e un po' sbiadita che si faceva del suo ragazzo. Se avessi osato confessarmi ai miei, ciò che mi avrebbero perdonato meno sarebbe stata proprio questa confessione. Sarei stato sorvegliato, non aiutato. Il nostro ruolo nella vita di famiglia è fissato una volta per tutte. Si è il figlio, il fratello, il marito, e il ruolo ci appartiene in proprio, come il nome, lo stato e i riguardi che ci spettano meno di diritto. Il resto non ha importanza, il resto è la nostra vita. Si diceva che avessi fatto grandi progressi con la musica e mia madre insisté perché prendessi lezioni di armonia. Il mio insegnante consigliò di mandarmi all'estero a perfezionare la mia educazione musicale. Sapevo che vi avrei trovato l'esistenza difficile, ciò nonostante desideravo partire. Una sera rientrai un po' più tardi del solito. Quando spinsi la porta, trovai mia madre seduta al buio. Negli ultimi tempi della sua vita, mia madre amava restarsene senza far nulla, al cadere della sera, come se volesse abituarsi all'inazione e alle tenebre. Mi sedetti accanto a lei. Ero in uno stato di languore un po' speciale e sembrava che una confessione sarebbe potuta sgorgare da me involontariamente, come fanno le lacrime. Ero sul punto di raccontare tutto quando la domestica entrò con una lampada. Sentii che non avrei potuto dire più nulla, che non avrei sopportato l'espressione del viso di mia madre quando mi avesse ascoltato. Quel poco di luce mi risparmiò un errore inutile ed irreparabile. Le confidenze sono pericolose quando non hanno lo scopo di semplificare la vita degli altri. Ma ero andato troppo in là per tacere e dovetti parlare. Dipinsi la tristezza della mia esistenza, le speranze per l'avvenire sempre rinviate, la soggezione nell'ambito della famiglia. Misi in quei lamenti tutto l'accoramento destinato ad un'altra confessione che non potevo fare e che era la sola ad importarmi. Mia madre si alzò, dirigendosi verso la porta. Sentivo quanto le pesasse non dirmi di no. Soffrivo di non poterle svelare la vera causa della mia insistenza e avrei quasi voluto dirle che non me ne sarei andato. Il giorno seguente mi chiamò e parlammo della mia partenza, come se la cosa fosse stata decisa da sempre. Arrivai a Vienna. Ero sulla soglia dei 19 anni. Presi una stanza in una casa assai povera. Ero pieno di buone intenzioni. Ricordo che credevo di poter ordinare metodicamente i miei desideri e i miei dolori come si dispongono gli oggetti nel cassetto di un mobile. Ma c'è uno strano godimento nel sapere che si è soli e che nessuno deve occuparsi di noi all'infuori di noi stessi. Ciò costituisce anche una grande tentazione. Rientravo tardi ogni notte attraverso i sobborghi deserti. Avevo paura di ritrovarmi in camera, di sdraiarmi su quel letto dove ero sicuro di non poter dormire. Anche quando arrivavo all'alba, dopo aver mancato alle promesse verso me stesso, dovevo pur rientrare in quella stanza e togliermi gli abiti di dosso, come avrei desiderato forse di potermi sbarazzare del mio stesso corpo. Non descriverò il sonnambulismo del desiderio, la ricerca allucinata del piacere, la risoluzione brusca che spazza via tutte le altre, la lacrità della carne che finalmente non obbedisce più che a se stessa. Noi descriviamo spesso la felicità di un'anima che riesce a sbarazzarsi del corpo, ma ci sono anche momenti nella vita in cui il corpo si sbarazza dell'anima. Mi concedevo ogni sera un momento di musica che era solo per me. Certamente questo piacere solitario è un piacere sterile, e la musica era divenuta un mestiere che esercitavo per vivere, ma nessun piacere sterile quando rimette il nostro essere in armonia con la vita. La musica ci trasporta in un mondo in cui il dolore non smette di esistere, ma si allarga, si placa, diventa più calmo e più profondo, come un torrente che si trasforma. Thank you. Il principe e la principessa di Mainau passavano allora ogni inverno qualche mese a Vienna. Eravamo un po' parenti da parte di donne. La principessa ricordava di essere stata educata insieme alla mia nonna materna, presso certe monache tedesche. Partecipavo raramente alle sue serate intime, ma mi riceveva sempre bene. Non aveva per me alcun vero attaccamento, ma solo un distratto affetto di vecchia signora indulgente. Faceva del suo meglio perché io mi formassi un mondo. Mi interrogava, ridendo, sulle giovani donne che incontravo a casa sua, stupendosi che non mi invaghissi di nessuna. Mi trovava timido e più giovane della mia età. C'è un che di rassicurante quando si è infelici e ci si crede colpevoli nell'essere trattati come bambini senza importanza. Sapeva che ero poverissimo. La povertà come la malattia erano cose brutte da cui lei distoglieva lo sguardo. Per non ferirmi, forse, mi faceva sempre regali inutili. La principessa passava l'estate a Vand, in una sua antica proprietà di famiglia. Vand era per me un nome vago, come tutti quelli dei luoghi in cui non immagineremmo mai di andare a vivere. Mi ci volle un po' per capire che la principessa mi stava invitando. Mi invitava per pietà, ma allegramente, prendendo possesso, per così dire, della mia vita fino all'autunno. Andai a Vand per trascorrervi 3 settimane e vi rimasi parecchi mesi. Il tono di vita era molto elegante ed io gustai la calma di quell'esistenza più facile. I principi di Mainau ricevevano molto, si viveva tra spartiti aperti, ultimi arrivi di libri dalla Francia e un continuo tintinnio di sonaglieri. In quegli ambienti colti e tuttavia frivoli sembra che l'intelligenza sia un lusso in più. La principessa mi chiamava sempre vedendo il suo straordinario che mi mettessi al piano. Sentivo che non era possibile suonare davanti a quel pubblico mondano altro che musica banale, superficiale, come le parole che erano appena state pronunciate. Ma c'è una certa bellezza in tante ariette dimenticate. Poi, sei arrivata tu. Mi avevano detto che eri bellissima, che eri ricca e perfettamente educata, ma non mi avevano detto quanto fossi buona. Fosse dipeso da me, sarei partito prima del tuo arrivo, ma non mi fu possibile. Capisco ora con quale intenzione il principe e la principessa mi trattennero. Disgraziatamente avevo intorno a me 2 vecchi preoccupati della mia felicità. La principessa desiderava che io ti ammirassi a priori. Bisogna, amica mia, che tu perdoni la principessa Caterina. Doveva conoscermi ben poco per credermi degno di te. Temeva per te i pretendenti volgari. Il matrimonio per lei è una commedia da salotto, costellata di intenerimenti e di sorrisi, in cui la felicità arriva solo al 5° atto. La felicità non è venuta, ma forse Monique non è colpa della principessa Caterina. Arrivasti a Vannes un giorno di fine agosto, al crepuscolo. Non sapevo che non stavi entrando soltanto in quella dimora tedesca, ma anche nella mia vita. Era troppo scuro perché io potessi distinguere i tuoi lineamenti. Mi accorsi solo che eri molto calma. Non era il tuo primo soggiorno a Vannes e quindi le cose avevano per te un volto familiare. Conversavi con i tuoi ospiti. Non dicevi che le parole necessarie, non facevi che i gesti che bisognava fare e tutto era perfetto. Io fui quella sera di una timidezza peggiore del solito. Avrei scoraggiato persino la tua bontà. Non ti ammiravo nemmeno, eri troppo distante. Il tuo arrivo mi parve solo meno sgradevole di quanto temessi. Vedi bene, Monique, che sto dicendo la verità. Cerco di rivivere il più esattamente possibile le settimane che ci condussero al fidanzamento. Non è facile. Devo evitare le parole felicità o amore, perché in fondo non ti ho mai amata, ma mi sei diventata cara. Provavo accanto a te un nuovo sentimento di fiducia e di pace. Tu amavi come me quelle lunghe passeggiate attraverso la campagna che non conducono in nessun luogo. La tua natura riflessiva si accordava alla mia timidezza. Tacevamo insieme. Le settimane passavano, tu cominciavi, credo, ad abituarti a me. Eravamo arrivati a scambiarci i nostri ricordi d'infanzia. Grazie a te io ne conobbi di felici, grazie a me tu ne conoscesti di tristi. Ogni ora aggiungeva qualcosa a quell'intimità timidamente fraterna ed io mi accorsi con terrore che avevano finito per crederci fidanzati. Mi confessai alla principessa Caterina, non potevo dire tutto, feci perno sull'estrema povertà in cui si dibatteva la mia famiglia. Tu eri disgraziatamente troppo ricca per me. Osai alludere a delle colpe precedenti di natura molto grave che mi vietavano il tuo amore, ma che naturalmente non potei precisare. Quella mezza confessione riuscì soltanto a far sorridere la principessa. Monique non mi credette neppure. Urtai contro la cocciutaggine delle persone leggere. I miei scrupoli le parvero testimoniare un amore autentico. Prima di conoscerti sognavo il matrimonio. Mai, neppure negli istanti di completo abbandono, avevo considerato il mio stato definitivo o semplicemente durevole. Immaginavo che una fanciulla dolcissima, grave e tenerissima avrebbe finito per insegnarmi un giorno o l'altro ad amarla. Che dovevo fare? Non si osa dire tutto a una fanciulla. Avrebbe significato perderti, insomma. Mi credevo in diritto, piuttosto in dovere, di non respingere l'unica possibilità di salvezza che mi offriva la vita. Mi sentivo giunto al limite del coraggio. Comprendevo che da solo non sarei più guarito e volevo guarire a quell'epoca. Ci si stanca di vivere esclusivamente degli aspetti più furtivi e disprezzati della felicità umana. Il desiderio di far bene mi condusse più in basso nei peggiori calcoli. Mi lasciai scivolare verso questo crimine. Ti rubai l'avvenire. Tu mi amavi. Mi domando ancora come tu abbia potuto, non dico innamorarti di me, ma adottarmi in questo modo. L'amore per te non era forse che una bontà appassionata. Hai creduto che bastasse l'essere perfetta per essere felice. Io ho creduto sufficiente per essere felice di non essere più colpevole. Ci siamo sposati a Vannes, in un piovoso giorno di ottobre. Avevo 22 anni e tu eri la prima donna che entrava nella mia vita. Ma tutto accanto a te era estremamente facile. Ti ero grato che mi terrorizzassi così poco. Ci sposammo nel piccolo tempio protestante del villaggio e poiché tuo padre era impegnato in una delle sue remote spedizioni, non c'era intorno a noi che qualche amico e mio fratello che mi ringraziò per avere con quel matrimonio salvato la nostra famiglia. Questa allusione alla tua ricchezza mi diede vergogna. Era, ricordo, uno di quei giorni misti di sole e di pioggia che cambiano facilmente espressione come un viso umano. Sembrava che si sforzasse di far bello, come io mi sforzavo di essere felice. Ed ora, Monique, sarebbe necessario il silenzio. Qui deve fermarsi il mio dialogo con me stesso. Qui comincia quello di due anime e di due corpi. Non posso dire uniti, ma almeno congiunti. Per raccontare tutto ci vorrebbe, amica mia, un'audacia che io mi proibisco di avere. Ma vorrei soltanto confrontare i miei ricordi con i tuoi, vivere magari al rallentatore quei momenti di tristezza e di gioia penosa che abbiamo forse troppo affrettatamente vissuto. Avevamo ritardato per una specie di tacito accordo l'istante in cui saremmo stati completamente uno dell'altra. Da tempo ci pensavo con un poco di inquietudine e anche di ripugnanza. Mi domandavo ogni sera se avrei osato raggiungerti. Non ne avevo mai il coraggio. Poi fu necessario. Senza dubbio tu non avresti più compreso. Penso con un po' di tristezza quanto maggiormente chiunque altro avrebbe apprezzato la bellezza di quel dono di te stessa. Non vorrei dire nulla che rischiasse di offenderti o di farti sorridere, ma mi pare che il tuo sia stato un dono materno. Ricordo con infinita pietà i tuoi sforzi per rassicurarmi, consolarmi e rallegrarmi, e quasi credo di essere stato io il tuo primo figlio. Non ero felice, avevo in un certo modo rinunciato alla felicità o almeno alla gioia. Io mi dicevo ancora più crudamente che forse la felicità non è altro che l'infelicità sopportata meglio e che tanto valeva essere ragionevoli. Che la gioia non c'era dovuta ed avevamo torto a lamentarci. Mi dicevo questo perché il coraggio spesso consiste nel dar ragione alle cose quando non c'è possibile cambiarle. E neanche tu, amica mia, eri felice. Avevi 24 anni, pressappoco l'età delle mie sorelle maggiori, ma tu non eri timida o sbiadita come loro. C'era in te un'ammirabile vitalità. Non eri nata per un'esistenza di piccole pene o di piccole felicità. Eri troppo potente. Eri nata per conoscere e per dare gioia. Avevi creduto che bastasse offrirla per riceverla in cambio. Non dico che fosti delusa. Ci vuole tempo perché un sentimento si trasformi in pensiero. Eri soltanto triste. Rinunciasti a chiedermi quel grande amore che nessuna donna potrà mai ispirarmi dal momento che non lo provo per te. Ma questo tu non lo sapevi. Eri troppo ragionevole per non rassegnarti a quella vita senza uscita, ma eri troppo sana per non soffrirne. Ti sforzavi in un certo modo di smorzarti per piacermi. Indossavi abiti scuri, spessi, che nascondevano la tua bellezza, perché il minimo tentativo di eleganza mi spaventava come un'offerta d'amore. Pur senza amarti, io mi ero attaccato a te con l'affetto più inquieto. L'assenza di un momento mi rattristava per un giorno intero e nessuno avrebbe potuto sapere se soffrissi di essere lontano da te o più semplicemente avessi paura di essere solo. Io stesso non lo sapevo, ma avevo altresì paura che fossimo insieme, che fossimo soli insieme. Ti circondavo di un'atmosfera di tenerezza snervante, ti domandavo 20 volte di seguito se mi volevi bene, sapevo troppo bene che era impossibile. Ci costringevamo alle pratiche di una devozione saltata. Sovente indugiavamo in quelle vecchie chiese accoglienti e cupe che si visitano in viaggio. Vi avevamo preso persino l'abitudine di pregare. Occupavamo la stessa camera. Ero io a volerlo. Ogni sera esitavamo ad accendere la lampada. La sua luce ci intimidiva, ma non osavamo più spegnerla. A quell'epoca avevi delle terribili insonnie, anch'io trovavo difficoltà ad addormentarmi. Simulavamo l'arrivo del sonno per non essere costretti a compiangerci l'uno con l'altra, oppure tu piangevi il più silenziosamente possibile affinché io non me ne accorgessi, ed io fingevo di non sentire. E forse meglio non accorgersi delle lacrime quando non possiamo consolarle. Il mio carattere cambiava. Diventavo bizzarro, difficile, irritabile. Avevo preso l'abitudine delle mezze confidenze. Ti torturavo con confessioni tanto più inquietanti in quanto incomplete. Trovavamo nelle lacrime una specie di misera soddisfazione. La nostra duplice sfortuna finiva per unirci come una mezza felicità. Anche tu ti stavi trasformando. Pareva che ti avessi rapito la serenità di un tempo. Avevi come me impazienze, tristezze improvvise, impossibili da capire. Eravamo come due malati che si appoggiavano uno all'altro. Avevo completamente abbandonato la musica. La musica faceva parte di un mondo in cui mi ero rassegnato a non vivere mai più. Si dice che la musica sia l'universo dell'anima. Credo sia vero. Ciò proverebbe ancora una volta come l'anima e la carne non siano divisibili e che l'una contiene l'altra come la tastiera contiene i suoni. Non suonavo più, né componevo. Il disgusto per la vita si estendeva lentamente a quei sogni di vita ideale. Perché un capolavoro, Monique, non è che vita sognata. Si era disseccata, o per meglio dire congelata in me, persino la gioia che ogni artista prova quando ha terminato un'opera. La mia fedeltà non sarebbe stata completa se mi fossi appartato ogni sera in un mondo d'armonia in cui tu non entravi. Non lavoravo più, trovavo una certa voluttà nel dipendere da te. Questa situazione un po' umiliante era una garanzia contro l'antico peccato. È crudele tradire una donna che ci ama, ma sarebbe odioso ingannare quella che ci permette di vivere. E tu non osavi biasimare apertamente la mia inerzia. Temevi che vedessi nelle tue parole un rimprovero alla mia povertà. L'inverno, poi la primavera, passarono. Gli eccessi di tristezza ci avevano prostrati come una lunga orgia. Provavamo quell'aridità di cuore che segue a un eccesso di lacrime, e il mio scoramento sembrava tranquillità. Imputammo la nostra prostrazione alla fatica dei viaggi. Ci stabilimmo a Vienna. Provavo una certa inquietudine a rientrare in quella città in cui avevo vissuto da solo, ma tu tenevi a non allontanarmi dal mio paese natale. Cercai di convincermi che a Vienna sarei stato meno infelice che altrove. Ti guardavo con un po' d'amarezza andare e venire in quelle camere ancora nude in cui sarebbero state imprigionate le nostre due esistenze. La società viennese è rimasta incantata dalla tua bellezza bruna e pensosa. La vita mondana alla quale né tu né io eravamo abituati ci permise per qualche tempo di dimenticare quanto fossimo soli. Poi ci stancò. Impiegavamo una notevole costanza nel sopportare la noia in quella casa troppo nuova, dove gli oggetti non racchiudevano per noi alcun ricordo e dove gli specchi non ci conoscevano. La vita meno solitaria e la lettura dei libri mi insegnarono la differenza tra la morale intima e le convenzioni esteriori. Quando, come me, si è presa l'abitudine a certe dissimulazioni, ci si accorge molto presto che esse sono universali. Acquisì una singolare attitudine ad indovinare i vizi e le debolezze degli altri. Mi rimproverai di aver accolto tragicamente dei precetti che tante persone tradiscono. La morale umana non è che un grande compromesso. Ognuno cova in silenzio i suoi sogni e i suoi segreti, senza confessarli neppure a se stesso, mentre ogni cosa sarebbe più agevole se non si mentisse. Non ho ancora detto quanto tu desiderassi un figlio. Io pure lo desideravo, ma quando seppi che avremmo avuto un bambino, sentii ben poca gioia. Non ci si può rallegrare molto di perpetuare la vita nel momento in cui la vita ci sembra assurda e priva di scopo. Quel bambino stava per venire al mondo tra due estranei. Non era né il frutto né il completamento della felicità, ma un compenso. Sperai che tutto si sarebbe aggiustato con il suo arrivo, perché tu eri triste. Al principio provavi una certa timidezza a parlarmi di lui, eppure quel piccolo essere già cominciava a venirci in aiuto. Io lo immaginavo come il figlio di un altro e gustavo la dolcezza di quell'intimità ridivenuta fraterna in cui la passione non doveva più entrare. Ti sentivo finalmente come una sorella o una parente prossima che mi fosse stata affidata e che bisognava curare e rassicurare. La mia contentezza non era priva di egoismo. Non avendo saputo renderti felice, trovavo naturale delegare quel compito al bambino. Mi dicevo che il bambino sarebbe stato molto più tuo che mio. Avrebbe ereditato non soltanto la tua ricchezza, ma anche i tuoi bei gesti calmi, la tua intelligenza e quel sorriso chiaro che ci viene incontro nei quadri francesi. Per un cieco sentimento del dovere, mi ero reso responsabile della sua vita, che, essendo mio figlio, correva qualche rischio di non essere felice. La mia sola giustificazione era quella di avergli dato una madre mirabile. E mi dicevo che apparteneva a quella famiglia in cui gli uomini preziosamente si trasmettono pensieri antichi, che al giorno d'oggi sono fuori uso, come le slitte dorate e le vetture di corte. Egli discendeva, come me, da antenati di Polonia, di Podolia e di Boemia. Avrebbe avuto le loro passioni, i loro improvvisi scoramenti, il loro gusto per tristezze e piaceri bizzarri e tutte le loro fatalità, alle quali si aggiungevano le mie. La volontà che quei volti di antenati esprimevano si era dunque realizzata. Il nostro matrimonio era approdato al figlio. Grazie a lui questa vecchia razza si sarebbe prolungata nell'avvenire. Importava poco ora che la mia esistenza continuasse. Non interessavo più ai morti e potevo sparire a mia volta, morire oppure ricominciare a vivere. Daniel nacque in giugno a Vrogno, in quel triste paese della Montagna Bianca nel quale io stesso sono nato. Avevi voluto che gli venisse al mondo in quel paesaggio d'altri tempi. Era per te come darmi più completamente mio figlio. Mi avevano ridato la camera in cui dormivo a 16 anni, in quel letto in cui ritrovavo insieme ai sogni di un tempo la cavità che allora aveva formato il mio corpo. Avevo la sensazione di congiungermi con me stesso. Io non ero cambiato. Soltanto gli avvenimenti si erano interposti tra me e la mia stessa natura. Io ero ciò che ero stato, forse un po' più profondamente di un tempo, perché via via che crollano una dopo l'altra le illusioni e le credenze, noi conosciamo meglio il nostro vero essere. Tanti sforzi e tanta buona volontà si concludevano nel ritrovarmi esattamente come ero un tempo. Fu allora che la musica tornò a me. Una sera di settembre cedetti all'attrazione del pianoforte, rimasto fino ad allora chiuso. Ero solo, nel salone quasi buio. Da molte settimane una strana irrequietezza si era insinuata in me, una febbre, delle insonnie, di cui davo la colpa all'autunno incipiente. Mi misi a suonare. Suonavo dapprima con precauzione, dolcemente, delicatamente, come se volessi addormentare in me la mia anima. Avevo scelto i brani più calmi, rifuggendo i brani più torpidi, ma la mia anima non voleva dormire. Suonavo vagamente, lasciando che ogni nota viaggiasse nel silenzio, abbandonando l'anima sull'onda degli arpeggi come un corpo cullato dai flutti del mare. Accordo dopo accordo, la mia anima penetrava sempre più profondamente nella carne e rimpiangevo mentre risalivo non tanto le mie colpe quanto le possibilità di gioia che avevo respinto, ciò che nasceva ora dalla gabbia in cui per più di 2 anni avevo sequestrato me stesso. Non era più il canto del sacrificio, era odio, odio per tutto ciò che mi aveva falsato, schiacciato per così tanto tempo. Non soffrivo di aver ceduto troppo spesso, ma di aver troppo a lungo e troppo severamente lottato. Con un sinistro piacere immaginavo che dalla tua camera tu potessi sentirmi suonare e mi dicevo che tanto bastasse come concessione e come spiegazione. E fu a questo punto che le mie mani mi apparve. Le mie mani, le mie sole amiche, mi sembravano tutto ad un tratto straordinariamente sensibili. C'era in loro tutti i gesti futuri, come su quella tastiera dormivano tutti i suoni possibili. Quella sera, alla maniera con cui si suggella un patto con se stessi, io ho baciato le mie 2 mani. Le mie mani, Monique, mi avrebbero liberato da te! A Vienna, in quegli ultimi giorni soleggiati d'autunno, provai la meraviglia di ritrovare il mio corpo, che mi guarì dall'avere un'anima. Tu hai conosciuto di me soltanto le paure, i rimorsi e gli scrupoli di una coscienza che non era nemmeno la mia, ma quella degli altri, che io prendevo per giudice e guida. La gente, che parla per sentito dire, sbaglia quasi sempre, perché vede dall'esterno e vede volgarmente. Non capisce come certi atti cosiddetti riprovevoli possano essere insieme facili e spontanei come la maggior parte degli atti umani. La gente si scaglia contro l'esempio, contro il contagio morale, e così facendo rinvia la possibilità di un chiarimento. Non sa che la natura è più varia di quanto la si immagini. Non vuole saperlo perché è più facile indignarsi che pensare. Tesse l'elogio della purezza. Non sa quanto di torbido può contenere la purezza. E soprattutto ignora il candore della colpa. La vita mi ha fatto ciò che sono. Prigioniero, se vogliamo, di istinti che non ho scelto, ma ai quali mi rassegno. E questa accettazione, in mancanza di felicità, mi darà almeno la serenità. Monique, amica mia, ti ho sempre ritenuta capace di comprendere tutto, e questo è assai più raro e prezioso che perdonare tutto. E ora ti dico addio. Ti lascio con dispiacere se penso alla tua infinita dolcezza, alla tua bontà femminile o piuttosto materna. Eri il solo essere davanti al quale mi ritenessi colpevole. Ma scrivere la mia vita mi conferma in me stesso. E finisco per compiangerti, senza condannarmi con severità. Ti ho tradita, è vero, ma non voglio ingannarti. Tu sei una di quelle persone che scelgono sempre per dovere il cammino più stretto e più difficile. E non vorrei, implorando la tua pietà, darti un pretesto per sacrificarti ancora di più. Ho assunto nei tuoi riguardi impegni imprudenti che la vita avrebbe disdetto. Ti chiedo scusa, il più umilmente possibile, non tanto di lasciarti, quanto di essere rimasto con te così a lungo. Thank you.